Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci ancora qui, 21:32 di questo mercoledì 16 maggio 2012. Adesso abbiamo un cantante ancora dalla Sicilia, come dicevo prima, ed è Carmelo Amenta. Benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao Carmelo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buonasera Carmelo, come stai? Bene, tutto ok. Voi come state? Bene, bene. Sai, io sono in una posizione molto particolare, ma molto positiva per i musicisti. Io sto proprio nella fossa di leoni. Cioè, una band sta praticamente provando quello che eseguirà fra mezz'ora Carmelo. È bellissimo stare nella fossa di leoni, sia telefonicamente sia fisicamente proprio qua dentro. Hai capito? No. Tu che ami particolarmente fare i live, sei un grande amante dei live, puoi chiaramente recepire com'è l'atmosfera. Eh sì, immagino, è di invidio. Bene, ti salutano tutti quanti, sono dei ragazzi di Mantova, si chiamano Not For Sale praticamente, ma dopo se vuoi continuare a sentire il nostro programma, li sentirai. Parliamo del tuo disco, Carmelo, un disco difficile, un po' cupo come sonorità, cosa dici? Sì, avevamo in testa un'idea di fare un disco diretto, è uscito fuori un disco scuro negli umori e nei colori, un disco che è comunque essenziale sia musicalmente che a livello di testi. Siamo riusciti a fare questo lavoro anche grazie a Paolo Messere, che insomma l'ha prodotto. Esatto, Paolo Messere è un musicista, un produttore, una casa discografica che mira particolarmente al discorso indie, ma è indie di qualità, Carmelo? Indie, io mi sento veramente distante dal movimento indipendente italiano, nel senso che pur essendo italiano e pur essendo indipendente... Non ti allontani da questo discorso? Sì, assolutamente sì, nel senso Paolo questa volta è riuscito a fare un lavoro totalmente differente rispetto ad alcune band. Questo è verissimo, per te sì, sono perfettamente d'accordo, sì, è un lavoro decisamente diverso dalla tipologia delle band che lui produce, sì, questo sono perfettamente d'accordo con te. Con l'idea di fare questo disco, dopo un grande successo secondo me del disco precedente, un successo anche di critica, 16.000 contatti hai avuto con il disco precedente. Ha avuto un grande successo da cattiva, io non so più chi ringraziare per questa cosa qui. Sì, una cosa molto molto interessante. L'idea di fare gratuità, praticamente un discorso gratuito, come mai ti è balenata l'idea di fare questo? Quando ho registrato l'erba cattiva volevo assolutamente che lo ascoltassero il maggior numero di persone possibili. E sono riuscito a farlo anche grazie a Engine of Saturation Records e a Barbinoia Records. Successivamente il discorso si è fatto un pochino più arduo, nel senso che non essendo legato ad un'etichetta e quindi ad un gruppo di persone che lavorassero anche per me, mi è diventato difficile vivere. Certo. In pratica ho scelto di legarmi ad un'etichetta e fortunatamente mi sono legato alla Fiors, quindi alla Red Bird, di conseguenza con Paolo, che mi sta permettendo tutta quanta una serie di cose, tra cui i live, che insomma sono fondamentali. E di conseguenza insomma guadagno in questo modo, ho fatto un disco difficile, differente dall'erba cattiva, ma era il momento veramente di farlo. Insomma, è stato anche un lavoro lungo a livello di ricerca e sono veramente felice. Sì, i gatti che sono protagonisti del titolo, ma tu hai scritto, hai detto, perché i gatti hanno innanzitutto bisogno di protezione, di amore, di coccole, è così Carmelo? Sì, assolutamente sì, è un disco che si basa essenzialmente su un concetto antispecista, per cui non si parla più né di razze neanche di specie, e di conseguenza quando si tratta questo argomento la conseguenza prossima è quella che se tu non hai il necessario te ne fai niente del superfluo. Certo, io comincerei ad aprire, Agostino mi indica, sì, esattamente, ad aprire il nostro spettacolo musicale con te, con la seconda traccia, lo spettacolo appunto. Ho trovato un pezzo molto complesso, ma interessante, quasi dark nella profondità. Cosa dici, Carmelo? Credo che sia un brano blues di base, cioè nel senso che di base ci sia il blues influenzato da... ma io ci leggo il dark, cioè l'oscuro, il sì, profondo. Quello ce l'ha messo, in verità ce l'ha messo Paolo. Ah, ce l'ha messo Paolo, non so se tu sai, Paolo è un ex, sì, un lambator. Certo. E quindi lui con i suoi interventi di tastiera ha creato un'atmosfera quasi new wave, sì, questo brano che in verità, io ripeto, è un brano blues proprio di base. Insomma, sai perché mi piace Paolo? Perché mi ricordava un vecchio, non so, qua i ragazzi qui presenti non so se possono ricordare, però mi ricordava Mauro Pelosi, Carmelo. Mauro Pelosi era un musicista degli anni 60-70 italiano, un cantautore molto particolare e anche aveva queste atmosfere, soprattutto nell'uso della voce, mi ricordi molto Mauro Pelosi. Io sono felice di questa citazione non solo perché ammiro la persona che tu hai citato, e poi perché Paolo secondo me è uno degli artisti più sottovalutati in Italia con i servizi O. Tra l'altro adesso ti do anche una bella chicca, nel prossimo album ci sono anche un paio di canzoni mie, quindi prossimo album di Paolo, insomma, contraddirò anch'io, e molto probabilmente sarà pure cantato in italiano. Bene. Che figata. Okay. Ascoltiamo la canzone, Carmelo. D'accordo. Lo spettacolo. Seduta lì all'angolo, non ascolta più le ragioni di chi crede solo e sempre nella strada che percorre sempre, ogni giorno, sempre. Sorride al nevolare gatti nella notte, per le strade, sopra i tetti, nei balconi e nelle case. Non crede sia necessario partecipare sempre allo spettacolo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Carmelo? Carmelo? Sì. Mi senti? Perfetto. Sì, effettivamente hai ragione, il discorso di Paolo ci ha messo una buona mano in questo pezzo. Non dico che l'abbia sconvolto, però ha estirpato il blues e l'ha un po' trasformato. Assolutamente sì, questo qui fa parte della mia, diciamo nostra scelta come band, di prendere un produttore capace di fare una cosa di questo genere. Paolo ha avuto una duplice funzione in questo album, non solo come manager della Red Bird Records, perché io adesso incido, ma anche come produttore che in qualche modo ha rispettato totalmente le mie scelte e ha rinnovato in qualche modo il mio sound. Io gli sono veramente molto grato. Paolo è una gran bella persona ed è difficile in questo ambiente conoscere persone di questo livello, insomma. Dal vivo è stato un grande onore lavorare con lui. Carmelo, un pezzo simile dal vivo, come lo puoi eseguire? Questo era da studio. Questo pezzo, lo spettacolo dal vivo, come lo gestisci praticamente? Cioè, dai l'impostazione blues rispetto al disco oppure lo gestisci come nel disco? In pratica dal vivo, adesso stiamo girando, ti dico subito, io ed Enzo Pepi, quindi in pratica siamo a due chitarre ed una voce. Lo spettacolo lo abbiamo eseguito soltanto in alcuni live, in forma blues, come facciamo frammenti ed altri brani del disco. In verità dal vivo eseguiamo un live prettamente intimo. Molto intimo, ci presentiamo come una band proprio che fa riferimento alle origini. Comunque tutto il live è improntato su questa storia qui del blues. Certo, sul blues, perché tu ami particolarmente le tue radici, possiamo dire che non possono non escludere il blues. Il blues fa parte delle tue radici al 100%. Fa parte delle mie radici letterarie e musicali. E musicali, questo è importante. Sì, quindi il percorso parte da là, il tuo percorso sonoro, esattamente. Per arrivare a un disco nuovo che rispetto all'Erba Cattiva praticamente ha la volontà di recepire dei suoni diversi, di allargarli, possiamo dire così? Assolutamente sì. Considera che ho fatto esattamente il lavoro contrario che ho fatto per l'Erba Cattiva, cioè... Sì. L'Erba Cattiva è stato concepito in un anno e registrato in quasi 6-8 mesi. Questo disco è stato concepito in un anno e mezzo, suonato parecchio in sala prove e registrato in 6 giorni. Però sei stato velocissimo praticamente. Cioè, volevo realmente un suono live forte, quindi con gli strumenti suonati. È stata veramente una gran bella esperienza, questa volta è stato intenso e forte. Esattamente, per l'Erba Cattiva, ritornando all'Erba Cattiva, sì. Tu suonavi con William Wilson, musicista straordinario secondo me. William è veramente una gran persona. Esattamente, è psichedelico, assolutamente, lisergico al massimo, io l'ho sentito qualche tempo fa, mi piaceva tantissimo. Lui, nonostante voglia sforzarsi di fare il rockman, è assolutamente un folkman proprio terribile. È un Sid Barrettiano, secondo me. Cosa dici, Carmelo? Lo è molto. Se ci sta ascoltando mi odierà per questa affermazione, ma fidatevi, è veramente un uomo tristissimo. Ma è bella questa condivisione di umori musicali fra tanta gente, perché tu hai suonato con tanta gente, tante persone diverse, però sempre con indirizzo, far musica, far bella musica, ascoltare non le solite cose, Carmelo. Secondo me è fondamentale, è un po' anche la cosa che manca un po' a tante band italiane, nel senso che invece di fare sempre la stessa cosa e cercare di raggiungere un obiettivo che di solito è notorietà, bisognerebbe suonare la propria canzone. Suoniamo, ognuno di noi suona la propria canzone, fa la cosa sua e cerca di proporla. questo farebbe dell'Italia, visto le persone che ci sono, assolutamente così tutte in gamba, insomma, si potrebbe creare una scena veramente non indifferente. Tu certo. Al Belgio, certo. Tipo, semplicemente Deus, Solwax e Sharko hanno fatto, hanno fatto la storia. Certo. Adesso passiamo alla traccia numero 6, mi pare. Me la puoi descrivere un momento, Carmelo? Intanto il titolo. La traccia numero 6 adesso mi manca, cioè nel senso qual è? Tutto è fuori posto sempre. Tutto è fuori posto sempre. è il perdonatemi. Il figolo. È il singolo. È il singolo. È un singolo assolutamente involontario. Come mai involontario, Carmelo? Involontario perché in questo disco di blues delle radici, quando l'ho portato in sala... un po' tutti ci siamo guardati e abbiamo detto cazzi, abbiamo fatto un singolo che non mi capitava da anni. Da un po' di tempo abbiamo girato anche il video. Bene. È una bella canzone, una bella canzone che parla di sentimenti, in questo disco ci sta proprio tanto. Lo sentiamo allora, Carmelo. D'accordo, grazie. Il silenzio mi dà il buongiorno insieme al mattino stupido, non mi dispiace, non mi importa, guardo lo scompiglio che hai lasciato dove tutto è fuori posto, sempre pensando ai tuoi occhi nei miei, al tuo dolore dentro e alla tua bocca addosso, seguirei il crescendo i tuoi occhi e non mi dispiace, non mi importa, e ancora meno da perdere, ho quasi niente da perdere tranne il mio disordine normale, pensavo ai tuoi occhi nei miei, al tuo dolore dentro e alla tua bocca addosso, seguirei il crescendo Radio Sera. Blu Radio Sera. Carmelo, a proposito di lisergico psichedelico, sarà anche un singolo, ma il finale è assolutamente di quel genere? O no? Il finale. Il finale di questo pezzo. Sembra rumore, rumoristico. Rumoristico alla fine. Quello è positivo, è 100% positivo. E non dici che sei indie. in questo momento sei indie al 100%. È vero, lo sapevo, insomma, che avresti corretto su questa cosa qui dell'indie. Ma in indie, se sei positivo, è assolutamente. In verità questo finale è stato inventato da Enzo Pepi, il mio chitarrista, ed è la persona anche che viene con me nei live. Lui è il chitarrista della Pepi Band, del Max Big Infection. Carbello, citiamo i musicisti che ti hanno dato una mano, dai, in questo disco. Assolutamente sì, praticamente io mi sono circondato di quattro musicisti di estrazione totalmente differente, quindi c'è Enzo che mi segue nei live, che suona con la Piggy Band ed è stato il chitarrista e anche fondatore di Tube Infection. Sì. Ho Francesco Accardi dei Susan Silver, e Graziano Latina alle percussioni e ai rumori, che di solito suona con Davide Rosolini. Comunque lui suona un po' con tutte le band siciliane che vanno in giro, insomma, Graziano. Una bella band, completamente strana, nel senso che ognuno di loro ha estrazioni differenti. Sì, esattamente. Mi pare che nel disco ci sono 10 brani, poi c'è anche un EP, 5 canzoni. Sì, abbiamo avuto questa bella idea di, invece di fare la bonus track classica, di regalare 5 brani, in pratica un EP, che si intitola Non dimenticare le piante. Certo. E di abbeverare le piante. è una bella cosa. Abbiamo regalato questi 5 brani. Poi è una cosa molto bella, bisogna cogliere l'essenza nell'immediato, subito, quello dobbiamo cogliere, non è così, Carmelo? Assolutamente sì. Hai detto, magari sorseggiando del vino rosso, non per forza di ottima qualità, ma possiamo dire anche di ottima qualità, no? Possiamo anche dire di ottima qualità, però torniamo al discorso precedente, sì, quando certo. Non è necessario, insomma, te ne fa niente del superfluo. Certo, certo, non si fa niente. Ma musica non è superflua, Carmelo, io sento musicalmente, sei uno che vuole andare, vuole cercare, vuole costruire sempre e continuamente, non si ferma mai. Intanto gli dico grazie, poi ti confermo che è così. Io fino a quando ce la faccio a fare questo lavoro continuerò a fare questa cosa qui, nel senso, mi piace veramente tanto andare a ricercare non solo dentro di me, perché insomma è ovvio e banale, ma anche proprio voglio fare una ricerca musicale che mi porti alla base, adesso io non so come definirla, ma proprio alla base di quello che realmente sono e che voglio far ascoltare. Un lavoro che mi impegna veramente tanto e che sono felice assolutamente di fare. E che posso fare anche grazie a voi, perché se non ci fosse gente come voi non andrei veramente da nessuna parte, insomma. Sì, però, perché mi danno questo tipo di attenzione. Certo, è bellissimo quello che dici, però ci vuole anche gente come te che vuole andare avanti, non vuole fermarsi, vuole costruire continuamente, provare, trovare dei nuovi stimoli, e questo nuovo disco è un nuovo stimolo, sicuramente. In effetti, guarda, il complimento più bello che ho ricevuto per questo disco è stato, c'era proprio bisogno di questa bella boccata d'aria, no? Di questa cosa nuova. In verità io ho fatto un disco vecchio, ma è realmente così, cioè, ho fatto un disco che suona come un disco vecchio e di canzoni vere. Ma il blues non fa mai male alla salute, Carmelo, c'è poco da fare, fa sempre bene alla salute, perché il blues cioè nel blues si fanno tante cose, dal blues partono tante cose, c'è poco da fare. Poi viene colorato con il folk, con il rock, puoi colorarlo come vuoi, Carmelo, però l'importante è andare avanti, e tu hai fatto un disco di allargamento degli stimoli musicali rispetto al precedente, c'è un'evoluzione, assolutamente. Spero di sì. Io sono perfettamente d'accordo in questo, e a me è piaciuto molto questo disco, un disco particolare, di ricerca, e questo è importante, bisogna ricercare, bisogna trovare le cose sempre interessanti da stimolare la gente che ti ascolta. Grazie, grazie, veramente grazie. Concludiamo con l'ultimo pezzo, Carmelo, la traccia numero 7 abbiamo scelto, l'ho scelta perché così mi è venuta, mi piaceva. Dimmi qualcosa della traccia numero 7 è esattamente coriandoli e polvere. Quello è un po' prendere particolare, è un po' particolare anche dal titolo. Coriandoli e polvere è esattamente una canzone che narra la situazione in cui io ho scritto il disco. Cioè una situazione di solitudine, di gioia per quello che è la mia terra e la mia storia. Forse il brano che a livello di testo, anche se leggermente ironico, sì, rappresenta di più il disco. È una canzone a cui tengo molto, e probabilmente anche la base. Non abbiamo utilizzato ad esempio dei ritmi ben definiti, ma semplicemente le percussioni suonate nel vero senso del termine, proprio in maniera percussiva anziché mettere un ritmo ben definito. Probabilmente è piaciuto soltanto a te questo brano, perché a me è piaciuto particolarmente e l'ho scelto. Sei il primo che lo passa per radio, cioè. Ok Carmelo, non so come ringraziarti. Non so come ringraziare io voi. Che grazie veramente per l'attenzione che mi hai dedicato. Ricordiamo un momento l'etichetta, Carmelo, produttore. Il produttore è Paolo Messere, l'etichetta è la Root Birds, la distribuzione è l'Audio Globe, il mio ufficio stampa è l'Aeronautic. Potete prendere il disco semplicemente andando in Feltrinelli oppure alla Fnac e ordinarlo. E speriamo di vederti. Dimmi. E speriamo di vederti qua. Se non dovessero averlo, spero anche io di passare qua in qualche giretto qui da noi per presentarlo dal vivo. Sarebbe veramente bello. Grazie Carmelo di tutto e ci sentiamo sicuramente qua live, veramente live, col blues nel sangue, chiaramente. D'accordo. Ciao, ciao Carmelo. Grazie Carmelo. Ciao Carmelo. Ciao. Questa giostra continua a girare sempre più veloce, e sopra gli spettri vestiti da clown danzano tra coriandoli e polvere, ridono dentro megafoni pieni di petali, esco e mi trascino. Se sembro stanco è perché lo sono, sì sul serio, esco, le gambe trascino, e sembro stanco, è un po' più vecchio di quanto sia. Vola su nel cielo blu, ma a me stanotte non pare davvero. Soffia il vento ulula tra coriandoli e polvere, canta da ore la stessa canzone ammaccata. Esco e mi trascino, se sembro stanco